Europa 24. Non si può vietare la vendita di mangimi e cibi OGM perché ciò lede il principio del mercato unico. E questa è la posizione del Parlamento europeo, che rigetta così la proposta della Commissione, la quale aveva previsto la possibilità per i singoli Stati membri di vietare l'import sul proprio territorio di OGM, anche se autorizzati a livello comunitario. Una proposta considerata inapplicabile. La conseguenza è che sugli OGM a livello europeo continua a regnare incertezza e confusione. Sentiamo Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare, al microfono di Alessandra Schepisi. In realtà il Parlamento rifiuta questa proposta perché, così come formulata, mira a introdurre una serie di barriere sul mercato interno. Immaginiamoci la Francia, che potrebbe essere favorevole al commercio degli OGM, mentre i paesi accanto, la Germania, potrebbe essere contraria. Che cosa facciamo? Reintroduciamo i controlli alla frontiera? Reintroduciamo un sistema doganale che spezza il mercato interno e fraziona a macchia di leopardo tutta l'Europa? Bene, una proposta di questo tipo secondo noi non è attuabile, non è la miglior proposta, dobbiamo formulare proposte diverse e per questo motivo abbiamo votato contro questa proposta della Commissione europea. Quindi la proposta viene rigettata, la Commissione deve formularne un'altra e cosa succede? La Commissione dovrà riflettere se formulare una nuova proposta o cercare di implementare la legislazione esistente. Oggi consente agli Stati membri di esprimere, rispetto al commercio di ogni prodotto OGM, la loro posizione, ma gli Stati membri non prendono mai posizione perché non si assumono le responsabilità. Fuori dall'Unione Europea per la Gran Bretagna non c'è la terra del latte e del miele, ma costi che potrebbero incidere per milioni di sterline sull'economia del Regno. La missione arriva dal premier conservatore inglese David Cameron, che dall'Islanda chiude la porta alla Brexit in vista del referendum da lui stesso promesso entro il 2017 per assecondare il fronte euroscettico. L'Austria costruirà una recinzione alla frontiera con la Slovenia per meglio controllare il flusso dei migranti, lo ha annunciato il ministro degli interni austriaco Johanna Mikl-Leitner. Non si tratta di chiudere la frontiera, ha spiegato, ma di controllare i flussi. E sulla crisi dei migranti in Europa serve un impegno comune. Se guardiamo la dimensione del problema, sono ancora troppo forti gli egoismi nazionali, ha detto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Bisogna avere politiche condivise di accoglienza e ricollocamento e di ritorno dei migranti nei paesi di origine, se in quei paesi ci sono le condizioni perché possano tornare, ha aggiunto Gentiloni. Il tema migranti è stato al centro oggi anche del discorso a Parigi del presidente della Commissione europea Juncker. Sulla questione della crisi dei migranti, alle capitali che domenica scorsa durante il vertice sulla crisi della rotta dei Balcani erano le più riottose a dialogare con Ankara, Juncker oggi ha risposto così. Sì, la Turchia. Piaccia o meno con la Turchia, dobbiamo cooperare, aiutandola a gestire la crisi dei rifugiati, nonostante i problemi che ancora ci sono riguardo al rispetto dei diritti umani e della libertà di stampa in Turchia. Ma Juncker ha anche ricordato che la Turchia ha 2,5 milioni di profughi più di noi e li ospita da molto più tempo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.